Capitolo 8. Il movimento e la sua funzione nell'educazione. Il movimento è la conclusione e lo scopo del sistema nervoso. Senza il movimento non può esistere l'individuo. Il sistema nervoso, col cervello, i sensi, i nervi e i muscoli, pone l'uomo in rapporto col mondo, diversamente dagli altri apparati dell'organismo che sono esclusivamente a servizio dell'individuo fisico. E allora sono chiamati organi della vita vegetativa. Il sistema vegetativo serve all'uomo per depurare il proprio organismo e mantenersi in salute, ma il sistema nervoso ha un fine più alto che non una semplice azione depurativa e tonificante della mente. Il comportamento degli animali non mira semplicemente alla bellezza e alla grazia dei movimenti, ma ha uno scopo più elevato, quello di collaborare all'economia universale della natura. E così anche l'uomo o la donna ha uno scopo, che non è quello di essere più puro e più fine degli altri animali, ma quello di usare le sue ricchezze spirituali a servizio degli altri. Le sue facoltà devono realizzarsi e così completare il ciclo del rapporto. Questo punto di vista deve essere tenuto presente non solo nella pratica della vita, ma anche nell'educazione. Se noi abbiamo un cervello, sensi e organi di movimento, tutto questo deve essere tenuto in funzione e se non si tiene ogni parte in esercizio, non possiamo neppure essere sicuri di comprenderli. Il movimento è l'ultima parte che viene a completare il ciclo del pensiero e l'elevatezza spirituale si raggiunge con l'azione o con il lavoro. La gente di solito pensa che si debbano usare i muscoli per mantenersi in buona salute e così per fare un po' di moto si gioca a tennis o si fa una camminata per digerire meglio e dormire più tranquilli. Questo errore si è insinuato anche nelle teorie educative ed è cosa veramente assurda, come lo sarebbe il ridurre un principe a fare il servo di un pastore. Il sistema muscolare, principe dell'organismo, è diventato una manovella da girare per un miglior funzionamento del sistema vegetativo. Questo è un grave errore. La vita fisica è interamente separata dalla vita mentale ed è necessario introdurre il gioco dei programmi scolastici perché il bambino possa svilupparsi tanto fisicamente che mentalmente. È vero che la vita mentale non ha nulla a che fare coi passatempi fisici, ma noi non possiamo separare ciò che natura ha unito. Considerando la vita fisica da una parte e quella mentale dall'altra, noi spezziamo il ciclo del rapporto e le azioni dell'uomo restano generalmente separate dal cervello. L'uomo impegna tutta la sua attività a mangiare e respirare, mentre il movimento dovrebbe servire alla totalità della vita e all'economia spirituale del mondo. È di importanza fondamentale che le azioni dell'uomo siano collegate col centro, il cervello, e messe al posto adatto. La mente e il movimento sono le due parti di un unico ciclo, e il movimento è l'espressione superiore. Altrimenti l'uomo si sviluppa come una massa di muscoli, senza cervello. C'è qualche cosa che non funziona, come quando un osso rotto paralizza l'arto. Il nostro nuovo metodo educativo si basa essenzialmente sulla constatazione che lo sviluppo mentale è connesso al movimento e da esso dipende. Senza movimento non vi è progresso né salute mentale. Questa verità non richiede dimostrazioni o documentazione formale, basta osservare la natura e i suoi fenomeni, e specialmente seguire lo sviluppo del bambino. L'osservazione scientifica dimostra che l'intelligenza si sviluppa col movimento. Esperimenti eseguiti in tutti i paesi del mondo hanno confermato che il movimento aiuta lo sviluppo psichico e che questo sviluppo si esprime a sua volta in altro movimento. Si stabilisce così un ciclo che deve essere completato, perché mente e movimento appartengono alla stessa unità. Anche i sensi vi contribuiscono. Ogni deficienza sensoriale diminuisce l'intelligenza del fanciullo. È logico che il movimento debba essere un'espressione più alta della psiche, perché i muscoli che dipendono dal cervello sono chiamati muscoli volontari, in quanto sono mossi dalla volontà dell'individuo. E la volontà è appunto l'energia primaria senza la quale la vita psichica non può esistere. I muscoli costituiscono la parte maggiore del corpo e gli danno forma. Sono molto numerosi e ve ne sono di delicati e di massicci, di corti e di lunghi e hanno funzioni diverse. Il sistema muscolare presenta una singolare caratteristica. Se un muscolo funziona in una determinata direzione, un altro funziona sempre nella direzione opposta. E l'esattezza del movimento dipende proprio da questa contrapposizione. L'individuo non ne è consapevole, ma questo è il modo con cui il movimento avviene. Agli animali la perfezione del movimento è data dalla natura. La grazia della tigre o dello scoiattolo è dovuta a un ricco e complesso sistema di muscoli oppositori che entrano in gioco per ottenere quell'armonia. Nell'uomo questo meccanismo non esiste alla nascita, deve essere creato. E questo avviene attraverso le esperienze pratiche dell'ambiente. Non si tratta tanto di un esercizio di movimento, quanto piuttosto di coordinazione. Questa coordinazione non è prestabilita per il neonato umano, ma deve essere creata e perfezionata attraverso la psiche. Ma l'uomo o la donna ha la facoltà di poter compiere tutti i movimenti, estendendoli al di là di quanto possa fare qualsiasi animale, anzi appropriandosi di alcuni di essi. Possiede un'abilità universale nell'azione, ma solo a condizione di costruire prima se stesso, creando all'inizio per un impulso subconscio, poi ripetendo volontariamente gli esercizi necessari per la coordinazione. Ricco di facoltà potenziali, egli sceglie di questa ricchezza la parte che vuole usare. Un ginnasta, una ginnasta, non è dotata di uno speciale apparato muscolare che l'aiuti. Né una danzatrice nasce con muscoli specificamente raffinati per la danza. Entrambe sviluppano i loro mezzi con la volontà. Così nulla è prestabilito, ma tutto è possibile sotto la direzione della volontà. E uomini e donne non fanno tutti le stesse cose, come gli animali della medesima specie. Ogni uomo o donna ha la sua via da seguire. E il lavoro è la principale espressione della sua vita psichica. Quelli che non lavorano corrono veramente pericolo di atrofia muscolare e spirituale. Benché i muscoli siano troppo numerosi per essere esercitati tutti, ve n'è tuttavia un certo numero sotto il quale non si deve scendere per non mettere in pericolo la psiche. Il riconoscimento di questo fatto ha spinto gli educatori e le educatrici a introdurre la ginnastica nelle scuole perché troppi muscoli erano lasciati inattivi. La vita psichica deve usare parecchi muscoli, ma lo scopo di quest'uso non dovrebbe essere primariamente utilitario, come avviene in alcune forme di educazione moderna cosiddetta tecnica. Il vero scopo è che l'uomo o la donna possa sviluppare la coordinazione di movimenti necessaria per arricchire il lato pratico della sua vita psichica. Altrimenti il cervello deve sviluppare una serie di movimenti staccati dalla direzione psichica centrale. E questo porta nel mondo rivoluzioni e disastri. Nel complesso quadro di una vita umana non viene in prima linea il lavoro, ma l'autoperfezionamento, l'autorealizzazione attraverso il lavoro. In realtà, questa centralizzazione ottenuta attraverso il movimento deve necessariamente espandersi. E non vi sono limiti alla sua espansione. Mentre in tutti gli altri animali i quattro arti si sviluppano simultaneamente come attività motoria, solo nella creatura umana la funzione delle gambe è nettamente diversa da quella delle braccia e gli arti hanno uno sviluppo differenziato. Si deve notare che la capacità di camminare e di tenersi in equilibrio è fissa in tutti gli uomini e le donne e si può chiamare un fatto biologico. Tutti compiono gli stessi gesti coi piedi, ma non con le mani, della cui attività nessuno conosce i limiti. Benché dunque la funzione dei piedi sia biologica, è seguita da uno sviluppo interno del cervello, col risultato che la creatura umana cammina con due sole gambe, mentre gli altri mammiferi ne usano quattro. Una volta che ha imparato a camminare su due gambe, mantiene la stazione eretta, che tuttavia è stata per l'umanità un'impresa difficile. Una vera conquista, per cui è stato necessario poggiare sul terreno l'intero piede e non solo le dita, come fanno gli altri animali. Evidentemente, la mano manca di una tale guida biologica, poiché le sue azioni non sono prestabilite. Tuttavia, ha un legame psichico e dipende per il suo sviluppo non solo dalla psiche del singolo individuo, ma dalla vita psichica delle diverse epoche cronologiche e dei diversi gruppi razziali. È caratteristica della creatura umana pensare e agire con le sue mani. Certo, l'intelligenza può raggiungere un certo livello anche senza l'uso della mano, ma con essa si raggiunge un livello ancora più alto e i bambini che hanno usato le mani hanno sempre un carattere più equilibrato. Se per forza di cose non può usare le mani, si riscontra in lui o in lei un carattere di tipo inferiore, incapace di obbedienza o di iniziativa, pigro, triste, mentre il bambino che può lavorare con le mani mostra fermezza di carattere. Gli studi linguistici hanno rivelato che il linguaggio è soprattutto legato all'udito. Allo stesso modo si è scoperto che lo sviluppo del movimento è connesso con la vista. Il primo passo del movimento è quello dell'afferrare o prensione. Non appena la mano afferra qualcosa, si desta la coscienza del gesto e si sviluppa la prensione, ossia ciò che prima era istintivo diviene movimento cosciente. A 6 mesi questo movimento è pienamente intenzionale. A 10 mesi l'osservazione dell'ambiente ha destato l'interesse del bambino, che ora desidera afferrare tutto ciò che vede. La prensione è accompagnata dal desiderio. Il piccino comincia ad esercitare la mano, cambiando posto agli oggetti che vede intorno a sé, aprendo e chiudendo le porte, tirando fuori i cassetti, mettendo tappi alle bottiglie e così via. Mediante questi esercizi acquista abilità. In questo periodo, per quel che riguarda gli altri arti, non sono entrate in gioco né l'intelligenza né la coscienza, benché si verifichi un rapido sviluppo del cervelletto, il centro direttivo dell'equilibrio. L'ambiente non ha nulla a che fare con tutto ciò. Il cervelletto ordina e il bambino, con un certo sforzo e con qualche aiuto esterno, si pone seduto e poi si rizza in piedi da solo. Dapprima il piccino si pone carponi e cammina a quattro zampe. E se in questo periodo un adulto gli offre l'aiuto di 2 dita a cui afferrarsi, egli o ella muoverà i piedi uno davanti all'altro, rizzandosi sulle sole punte. Quando finalmente impara a stare ritto da solo, appoggia a terra tutto il piede e cammina tenendosi alla gonna della madre. Ben presto saprà camminare da sola e godere di questa nuova indipendenza. Ora, se l'adulto continua ad aiutarlo, non sarà altro che un ostacolo al suo sviluppo. Noi non dobbiamo aiutare i bimbi a camminare, e se la loro mano vuole lavorare, dobbiamo offrir loro degli incentivi all'attività manuale e lasciarli avanzare verso sempre maggiori conquiste della loro indipendenza. Un fattore importante e chiaramente visibile all'età di 1 anno e mezzo è la forza delle mani e dei piedi, e di conseguenza il bambino, in tutto ciò che fa, prova l'impulso a impiegare il massimo sforzo. L'equilibrio e l'uso delle mani si sono finora sviluppati separatamente, ora procedono paralleli. Il bambino ama camminare reggendo oggetti pesanti, spesso sproporzionati alla sua statura. La mano, che ha imparato ad afferrare, deve esercitarsi trasportando pesi. Così si vedono frequentemente bambini di quest'età camminare, per esempio, con una grossa brocca d'acqua, passi lenti e cauti per non perdere l'equilibrio. Si nota persino una certa tendenza a sfidare la legge di gravità. Non contento di camminare, il bambino deve arrampicarsi, afferrandosi a qualche appiglio e tirandosi su. Subito dopo si passa al periodo imitativo, quando il bambino, ormai libero di agire, vorrà fare anche lui le cose che fanno gli adulti. Così ci appare la logica dello sviluppo naturale. Dapprima il bambino prepara i suoi strumenti, ossia le mani e i piedi, poi acquista forza con l'esercizio. E infine comincia ad osservare cosa fanno gli altri e si pone al lavoro per imitazione, preparandosi per la vita e la libertà. In questo periodo della sua attività, il bambino è un gran camminatore, ha bisogno di lunghe passeggiate e gli adulti insistono a portarlo in braccio o a metterlo nella carrozzella, sicché il povero piccino può camminare soltanto con la fantasia. Non può camminare, qualcuno lo porta. Non può lavorare, qualcuno fa tutto per lui. Sulle soglie della vita, noi adulti gli diamo il complesso di inferiorità. Capitolo 9. Azione imitativa e cicli di attività. La creatura di 1 anno e mezzo è oggetto di speciale interesse per gli psicologi, perché questo è un periodo di enorme importanza nell'educazione. Fisiologicamente è una fase di coordinamento fra l'addestramento degli arti superiori e quello degli arti inferiori. E psicologicamente il bambino è alla vigilia del suo pieno sviluppo di piccolo uomo o piccola donna, che a 2 anni si completerà con l'esplosione del linguaggio e già si sforza di esternare ciò che sente dentro di sé. È un fatto riconosciuto che questa è un'età di massimo sforzo, che ha bisogno di trovare sostegno e inoltre compare nei bambini uno spiccato istinto di imitazione. Si è sempre detto che i bambini imitano i grandi, ma per lo più era un'affermazione superficiale, accompagnata dal consiglio che genitori e maestri o maestre dessero ai piccoli un buon esempio da seguire. Il risultato non era sempre felice, perché tutti pensavano di doversi presentare come modelli di perfezione, anche se in cuor loro sapevano di esserne ben lontani. Si voleva un'umanità perfetta, si riteneva che l'umanità dovesse diventare perfetta imitando gli adulti. Ma questi adulti erano esseri imperfetti, per cui si dibattevano in un vicolo cieco senza speranza di uscire. Tuttavia la natura non segue questo ragionamento. Ciò che importa è che il bambino o la bambina sia addestrata per poter imitare, e questa preparazione, che è la cosa veramente importante, dipende dallo sforzo del bambino stesso. Ma questo sforzo non consiste nell'imitazione, bensì nella creazione entro la psiche della possibilità di imitare, di trasformarsi nell'oggetto desiderato. Un bambino non può diventare un pianista per semplice imitazione, ma deve esercitare le sue mani per conseguire la necessaria agilità, e a un livello superiore il semplice racconto delle vite di santi o di eroi non farà di lui un eroe o un santo finché il suo spirito non è preparato. L'imitazione può offrire un'ispirazione, un incentivo, ma ci deve essere un'adeguata preparazione per tradurre il desiderio in atto. La natura non si limita a infonderci l'istinto di imitazione, ma ci dà la capacità di fare uno sforzo per trasformarci in ciò che l'esempio presenta. Così le educatrici che si propongono di aiutare lo sviluppo della vita, debbono esaminare con somma cura quali mezzi siano più adatti a sostenere questi sforzi. Il bimbo o la bimba di quest'età si accinge talvolta a certi lavori che possono magari sembrare assurdi al modo di ragionare degli adulti, ma questo non ha importanza. Lui o lei deve portare a termine l'attività intrapresa. Vi è nella creatura una necessità vitale di portare a compimento l'azione, e se il ciclo di questa necessità vitale viene interrotto, provoca deviazioni dalla normalità e instabilità di propositi. Oggi si attribuisce molta importanza a questo ciclo di attività, che è un'indiretta preparazione alla vita futura. Per tutta la loro esistenza, uomini e donne si preparano indirettamente al futuro. E quando si fa qualche cosa di grande in genere, si può constatare che si è avuta alle spalle un periodo di lavoro preliminare. Questo non è necessariamente sulla stessa linea dell'opera finale, ma in qualche direzione c'è stato uno sforzo intenso che ha dato allo spirito la necessaria preparazione, e questo sforzo si deve sviluppare completamente. Il ciclo deve essere portato a termine. Gli adulti perciò non dovrebbero mai intervenire a interrompere una qualsiasi attività infantile, per quanto assurda possa sembrare, finché si capisce non presenti pericoli per la vita o l'incolumità personale. Il bambino deve portare a termine il suo ciclo di attività. Questa attività assume diverse forme interessanti. Abbiamo già accennato alla passione che hanno i bambini di portare pesi superiori alle loro forze e senza una ragione apparente. In casa di un amico vidi una volta il suo figlioletto che si affannava a trasportare dei pesanti sgabelli uno per uno da un'estremità all'altra della stanza. I bambini di quest'età continuano a trasportare oggetti su e giù finché sono stanchi. La reazione comune degli adulti è di sentire pietà per il povero, fragile piccino e correre ad aiutarlo e a togliergli il peso dalle mani. Ma psicologhe e psicologi hanno riconosciuto che interrompere in questa maniera un ciclo di attività scelto dal bambino è una delle più gravi repressioni che si possano esercitare a quest'età e può portare a notevoli difficoltà in futuro. Un altro esercizio favorito nella prima infanzia è quello di arrampicarsi su per le scale, e non allo scopo di raggiungere il piano superiore, perché giunto in alto il piccino deve ridiscendere al punto di partenza per completare il ciclo. Ho visto un giorno un bambino che saliva una scala ripidissima, con i gradini così alti che ognuno gli arrivava alla vita, sicché gli doveva usare tutte e due le mani per tirarsi su, e poi ruotare le gambette in una posizione faticosissima, ma ebbe la costanza di arrivare in cima, 45 gradini. Poi si volse a guardare in basso per misurare la sua conquista, ma perse l'equilibrio e cadde giù dalle scale. I gradini erano coperti da un fitto tappeto e il piccino non si fece troppo male. E quando fu arrivato in fondo, dopo l'ultimo capitombolo, si alzò e ci guardò bene in faccia. Noi ci aspettavamo che scoppiasse a piangere, invece egli sorrideva tutto contento e pareva volesse dire: com'è duro salire e com'è facile scendere. Talvolta queste imprese infantili rivelano uno sforzo d'attenzione e un buon coordinamento muscolare piuttosto che vera e propria forza. Un bambino di un anno e mezzo, che era lasciato libero di gironzolare per la casa, arrivò nella guardaroba, dove c'era una pila di 12 grandi tovaglioli già stirati e pronti per essere riposti. Il bambino afferrò il primo con entrambe le mani, tutto felice di vedere che si staccava facilmente dalla pila, tornò nel corridoio e lo spiegò con somma cura, deponendolo sul pavimento nell'angolo più lontano. Fatto ciò, tornò a prenderne un altro e ripeté l'operazione per tutti e 12 i tovaglioli, dicendo ogni volta fra sé uno, via via che li prendeva. Quando li ebbe tutti deposti nel luogo che aveva scelto, noi credemmo che l'impresa fosse finita. Nemmeno per sogno. Appena ebbe deposto l'ultimo nell'angolo, si accinse a riportarli al posto di partenza, prendendoli sempre uno per uno e dicendo uno per ogni viaggio. Il bambino si concentrava nel lavoro con straordinaria attenzione e quando finalmente se ne andò per qualche altra sua faccenda, aveva sul visetto un'espressione soddisfatta e raggiante. All'età di 2 anni il bambino ha un estremo bisogno di camminare che spesso gli psicologi non tengono abbastanza in considerazione. Può camminare per 2 o 3 chilometri e se una parte della strada è in salita, tanto meglio, gli piace salire. I punti difficili della passeggiata sono i più interessanti per lui, ma gli adulti devono rendersi conto di ciò che significa per il bambino una passeggiata. L'idea che egli non sia in grado di camminare deriva dal fatto che essi vorrebbero vederlo marciare al loro passo, e poiché le sue corte gambette non glielo permettono, lo prendono in braccio e così lo portano per arrivare più presto alla meta. Ora, il bambino non si propone di andare in qualche posto, ha solo voglia di camminare e per aiutarlo veramente l'adulto deve seguire il bambino. Non pretendere che il bambino cammini svelto come lui. In questo esempio la necessità di seguire il bambino risulta chiara, ma in realtà questa è una norma valida per tutti gli aspetti dell'educazione e in tutti i campi. Lo sviluppo del bimbo o della bimba ha le sue leggi. E se noi vogliamo aiutarlo a crescere, dobbiamo seguirlo invece di imporci. Il bimbo o la bimba cammina con gli occhi non meno che con le gambe. Ciò che lo fa avanzare è la vista delle cose interessanti che sono intorno a lui. Cammina finché vede un agnello che pascola, allora è attirato dallo spettacolo e si siede a guardare. Soddisfatto di questa esperienza, riprende poi a camminare e vede un fiore e si siede accanto per odorarlo. Un po' più in là è colpito da un albero e gira attorno al suo tronco 3 o 4 volte prima di proseguire. In questo modo può percorrere dei chilometri pieni di brevi fermate e di interessanti scoperte. E se per strada incontra qualche difficoltà, come una roccia da scalare o un ruscello da attraversare, la sua gioia è al colmo. L'acqua esercita un'attrazione singolare sul bambino che talvolta si siede e dice: acqua! Con aria felice, mentre un adulto sarebbe passato oltre senza neppure accorgersi di un sottile ruscello che stilla goccia a goccia. Così il bimbo o la bimba concepisce il camminare in modo diverso, molto diverso dalla sua bambinaia, che vuole solo arrivare in un certo posto nel più breve tempo possibile. Ella lo conduce al parco per una passeggiata o gli fa prendere aria in una carrozzella col mantice rialzato, in modo che il piccolo non può vedere quasi niente. L'educazione deve considerare l'uomo o la donna camminatore, che avanza come un esploratore o un'esploratrice. Tutti i bambini dovrebbero camminare in questo modo, guidati dall'attrattiva di vedere nuovi oggetti, e qui l'educazione può venire in aiuto, facendogli conoscere i colori, le forme delle foglie, le abitudini degli insetti, degli uccelli, ma degli altri animali. Tutti questi oggetti risvegliano il suo interesse quando esce, e più impara, più cammina. Il camminare è in sé un esercizio completo. Non c'è bisogno di altri sforzi ginnici, perché questo è sufficiente a far respirare e digerire meglio. E questi sono proprio i vantaggi che ci si aspetta di ricavare dallo sport. La bellezza corporea si acquista camminando, e se la creatura trova qualcosa di interessante da raccogliere e classificare, o un fosso da scavare, o della legna da raccogliere per fare un falò, queste azioni, accompagnando la camminata, rendono l'esercizio più completo. La pratica del camminare deve dunque entrare a far parte dell'educazione, specialmente oggi che la gente cammina tanto raramente, ma usa invece l'automobile o altri mezzi di trasporto, sicché si osserva una tendenza all'immobilità e all'indolenza. Non si può dividere la vita in due, muovendo gli arti con lo sport e la mente con la lettura. La vita deve essere un tutt'unico, specialmente nei primi anni di età, quando il bambino sta costruendo se stesso. È così difficile trovare adulti capaci di non intervenire, ma di comprendere e rispettare l'indipendenza della creatura, seguendo le sue naturali linee di sviluppo, che psicologhe e psicologi insistono sulla necessità di creare degli ambienti dove il bambino possa lavorare. Per questo sorgono scuole per i più piccini, persino per quelli di un anno e mezzo. In queste scuole si offre alla creatura ogni sorta di cose. Persino delle capanne sugli alberi con scale per salire e scendere. La capanna non è fatta per viverci, ma per offrire un centro di interesse ai bambini che si arrampicano. Si deve riconoscere che l'educazione non incomincia mai troppo presto, se vogliamo allevare uomini e donne che siano degni cittadini e cittadine di una libera democrazia. Come possiamo parlare di democrazia o di libertà se fin dai primi anni di vita noi educhiamo i fanciulli a sopportare la tirannide, ad obbedire a un dittatore? Come possiamo aspettarci una democrazia se abbiamo allevato degli schiavi? La vera libertà comincia all'inizio della vita, non nell'età adulta. Questi uomini e donne che sono stati mutilati nelle loro facoltà, resi miopi e svigoriti dalla fatica mentale, i cui corpi sono stati deformati e la volontà spezzata dai superiori autoritari che dicono la tua volontà deve sparire e la mia deve imporsi. Come possiamo aspettarci che questi uomini e queste donne, terminate le scuole, accettino e usino i diritti di liberi cittadini e cittadine? Capitolo 10. Il bambino di 3 anni. Sembra che la natura abbia tracciato una linea di demarcazione fra i primi 3 anni di vita e il periodo successivo. La prima infanzia, benché fortemente creativa e ricca di avvenimenti importanti, diviene il periodo dimenticato, paragonabile alla vita embrionale che precede la nascita fisica, perché solo ai 3 anni cominciano la piena coscienza e la memoria. Nel periodo psico-embrionale si sono verificati sviluppi separati e indipendenti, come il linguaggio, i movimenti degli arti e la loro coordinazione, e taluni sviluppi sensoriali, allo stesso modo che gli organi si erano sviluppati uno per uno nell'embrione fisico prima della nascita. Ma nessuno ricorda questi due processi, perché finora non si è realizzata quell'unità della personalità che sopravviene solo quando le varie parti sono già compiute. Questa creazione subconscia e inconscia, questo bambino dimenticato, sembra essere completamente cancellato nell'uomo, e il bambino di 3 anni che ci troviamo davanti ci appare un essere incomprensibile. La comunicazione fra lui e noi è stata tolta dalla natura. Perciò noi dobbiamo o conoscere tutto ciò che è avvenuto in questa prima fase infantile, o conoscere la natura stessa, se non vogliamo correre il rischio di distruggere ciò che essa stava costruendo. Noi abbiamo abbandonato il naturale cammino della vita per la via fatale della civiltà. E poiché l'umanità civilizzata si preoccupa di proteggere solo la parte fisica dell'uomo e non la sua parte psichica, quello che ne risulta per il bambino è una prigione, un ambiente irto di ostacoli. Il bambino o la bambina è completamente affidata agli adulti e questi, se non sono illuminati dalla saggezza della natura o della scienza, rappresentano di solito i maggiori ostacoli nella sua vita. Il bambino di 3 anni si deve sviluppare esercitandosi nel suo ambiente, e usando in questo gli strumenti che si è creato nel precedente periodo. Gli avvenimenti di quegli anni sono stati dimenticati, ma le facoltà che allora egli si è creato ora affiorano alla superficie della coscienza attraverso esperienze fatte in piena consapevolezza. La mano, guidata dall'intelligenza, compie una specie di lavoro ponendo in atto la volontà psichica. È come se il bambino, il quale in precedenza ha ricevuto il mondo attraverso l'intelligenza, ora lo prendesse con le sue mani. Ora egli vuole perfezionare le sue precedenti acquisizioni, come per esempio il linguaggio, che è già completo nel suo sviluppo, ma si va arricchendo fino ai 4 anni e mezzo. La mente conserva ancora la facoltà propria del periodo psicoembrionale di assorbire senza fatica, ma ora è la mano che diviene l'organo diretto della prensione intellettuale e il bambino si sviluppa lavorando con le sue mani invece che camminando intorno. A quest'età è continuamente al lavoro, felice e di buon umore, se è sempre impegnato in attività manuale. Gli adulti la chiamano la beata età del gioco e la società ha creato una quantità di balocchi per venire incontro a questo bisogno di attività, ma invece di dargli i mezzi per sviluppare la sua intelligenza, non gli offre che inutili giocattoli. Il bambino o la bambina vuole toccare tutto e gli adulti gli lasciano toccare alcune cose e gliene proibiscono altre. L'unica cosa reale che gli lasciano maneggiare è la sabbia e dove non c'è sabbia l'adulto pietoso la porta ai bambini ricchi. Anche l'acqua può essere permessa, ma non troppa perché il bambino si bagna e l'acqua e la sabbia fanno sporco, che l'adulto è poi obbligato a lavare. Quando il bambino si stanca della sabbia, gli danno in mano dei modellini di oggetti usati dagli adulti, cucinette e casette in miniatura, pianoforti della bambola, tutte cose che non si possono veramente usare. Si riconosce che il bambino ha bisogno di copiare il lavoro degli adulti, ma in risposta a questa sua esigenza gli si danno oggetti con i quali egli non può lavorare. È una beffa. Al bambino che si sente solo si dà in braccio una caricatura della figura umana, una bambola. E la bambola può diventare per lui più reale del padre e della madre, ma la bambola non può rispondergli né ricambiare il suo amore e rappresenta un surrogato ben insufficiente della società. Il balocco è divenuto così importante che la gente lo crede un aiuto per l'intelligenza. È certamente meglio di niente. Ma è significativo il fatto che il bambino o la bambina ben presto si stancano di un giocattolo e ne vogliono altri. Li rompono così senza scopo, per capriccio, e gli adulti ne deducono che si prova piacere a fare a pezzi le cose. Ma questa è una caratteristica sviluppata artificialmente, dovuta al fatto che i bimbi non hanno le cose giuste da manovrare. I bambini hanno scarso interesse nei giocattoli perché non c'è realtà in essi. Così divengono irrequieti e disattenti, non hanno la possibilità di svilupparsi normalmente e la loro personalità finisce col deformarsi del tutto. A quest'età il bambino o la bambina si impegnano seriamente e consapevolmente a perfezionarsi, imitando i più grandi in tutte le esperienze della vita, ma se non gliene diamo la possibilità, è inevitabile che si deformino. Questa è in modo particolare la tragedia dei bambini civilizzati. In ambienti sociali più semplici il bimbo è normalmente più calmo e più felice, poiché può usare liberamente gli oggetti che lo circondano, che non sono tanto preziosi da dover essere sottratti alle sue manine per paura che li guasti. Quando la madre lava la biancheria o impasta il pane, anche il bambino o la bambina possono lavorare con lei se trovano oggetti adatti e così si preparano per la vita. È ormai incontestabilmente provato che il bambino di 3 anni deve maneggiare le cose per i propri scopi. Quando gli oggetti sono fatti per lui, in proporzione della sua statura, ed egli può svolgere la sua attività con essi proprio come la svolgono gli adulti, tutto il suo carattere sembra cambiare, lo si vede calmo e contento. Non si cura delle cose che non rientrano nel suo ambiente usuale, perché il suo lavoro è quello di adattarsi al mondo adulto che lo circonda e lo scopo della natura è di procurare gioia nel soddisfacimento di determinate attività. Così il nuovo sistema educativo deve consistere nell'offrire incentivi all'attività infantile con oggetti fabbricati espressamente per la forza e la statura del bambino. E come gli uomini lavorano di solito a casa e nei campi, anche i bambini devono avere la loro casa e il loro campicello. Non balocchi per i bambini, ma case fatte per loro. non balocchi, ma terra su cui possano lavorare, con piccoli attrezzi, non bambole, ma veri bambini e una vita sociale in cui possano agire e muoversi da sé. Questo è ciò che noi adoperiamo oggi in sostituzione dei balocchi del passato. Una volta spezzate queste barriere e strappato il velo dell'irrealtà, quando i bambini ebbero finalmente in mano oggetti veri e reali, la loro prima reazione non fu quella che ci eravamo aspettati. Mostrarono una personalità diversa, affermando la propria indipendenza e rifiutando ogni aiuto. Sorpresero madri, bambinaie e maestre, mostrando chiaramente che volevano essere lasciati soli. Gli adulti dovevano restare semplici osservatori in questo ambiente di cui bambini e bambine erano divenuti padroni. Per quanto riguarda questi miei primi esperimenti, i fatti a cui ebbi la fortuna di assistere a Roma molti anni fa non si sarebbero verificati senza il concorso di speciali circostanze. Se avessimo fondato una casa dei bambini in un quartiere ricco di New York, nulla di notevole sarebbe accaduto. Come nulla accade in molte scuole ricche che dispongono di larghi fondi, non è solo la mancanza di oggetti da maneggiare che pregiudica lo sviluppo del bambino o della bambina, ma anche altri fattori di oscurantismo. Le circostanze che favorirono quel mio primo esperimento furono specialmente tre: l'estrema povertà e una condizione sociale particolarmente difficile. Il bambino o la bambina molto povera può soffrire fisicamente di mancanza di cibo, ma si trova in condizioni naturali e così non manca di una ricchezza interiore. 2. I genitori di quei bambini erano analfabeti e non potevano dare ai loro figli un aiuto sbagliato. 3. Le nostre maestre non erano insegnanti di professione e così erano libere dai pregiudizi pedagogici prodotti dalla comune pratica scolastica. In America i nostri esperimenti non ebbero mai successo perché gli americani cercavano i migliori insegnanti e buon insegnante significava uno che aveva studiato tutte le cose che non servono al bambino ed era pieno di idee contrarie alla sua libertà. Il voler imporre al bambino un maestro non fa che ostacolarlo. Bisogna scegliere della gente semplice da impiegare in quest'opera e quanto alla povertà non vi è certo bisogno di imporla. Ma non si deve averne paura, poiché è una condizione altamente spirituale. Se vogliamo fare un esperimento facile e avere un successo sicuro, dobbiamo andare a lavorare fra i bambini poveri, offrendo loro un ambiente che non possiedono. Un oggetto scientificamente costruito e accolto con appassionato interesse da un bambino che non ha mai avuto niente, ed desta in lui la concentrazione mentale. 40 anni fa, questo fatto suscitò la sorpresa generale. Perché non si era mai visto in bambini di 3 anni. Tuttavia la concentrazione è un atto basilare, nel senso che il bambino si impadronisce dell'ambiente, dei suoi oggetti, esplorandoli uno per uno e soffermandosi a lungo su ciascuno. Nelle comuni, insoddisfacenti condizioni, invece, passa da una cosa all'altra senza concentrarsi su nessuna in particolare. Ma abbiamo dimostrato che questa incostanza non è il suo vero carattere. Si deve ricordare che nel bambino di 3 anni il maestro interiore è ancora all'opera e lo guida con infallibile sicurezza. E quando parliamo di un bambino libero, intendiamo un bambino che segue la guida di quella natura che è così potente in lui. La creatura guidata dalla natura è attenta a tutti i particolari del lavoro che ha intrapreso. Per esempio, se gli si dice di spolverare un tavolo, spolvera il ripiano, le gambe, i fianchi, la superficie inferiore e persino le eventuali fessure, mentre ci si aspettava che ripulisse solo il piano. Se è lasciata libera e non viene interrotta dalla maestra, dedica una completa, concentrata attenzione al suo lavoro. Troppe maestre tendono a interrompere continuamente, pretendono di insegnare, sicché il bambino o la bambina che si sta sviluppando spontaneamente sotto la guida della natura non può andare avanti con un insegnante che insegna. La maestra ritiene di doverlo guidare dal facile al difficile, dal semplice al complesso, a passi graduali, mentre bambino o bambina può procedere dal difficile al facile e avanza a lunghi passi. Un altro pregiudizio di queste maestre o maestri è quello della fatica. Un bambino che ha interesse in ciò che fa procede senza fatica, ma se la maestra lo interrompe ogni 5 minuti per farlo riposare, perde interesse e si stanca. Ora, negli insegnanti che provengono dalle comuni scuole magistrali, Tali erronee convinzioni sono così profondamente radicate da risultare incurabili. Nella maggior parte delle scuole moderne, il pregiudizio riguardante la necessità del riposo imperversa a tal punto che ogni tre quarti d'ora è disposto un'interruzione di ogni attività, con risultati veramente rovinosi. Il mondo pedagogico è guidato dalla logica umana, ma la natura ha altre leggi. La logica distingue fra attività fisiche e mentali e afferma che per il lavoro mentale è necessario starsene seduti immobili in una classe, mentre per il lavoro fisico non si richiede la partecipazione della mente, e così taglia il bambino in due. Quando pensa, non gli si permette di usare le mani, ma la natura dimostra che il bambino non può pensare senza le mani e che ha bisogno di camminare continuamente, come i filosofi peripatetici dell'antica Grecia. Il movimento e la mente si accompagnano a vicenda. Eppure molti pensano che sia impossibile condurre una scuola dove i bambini studiano e contemporaneamente si muovono camminando tutt'attorno. Il nostro nuovo metodo mira a liberare l'insegnante da questi e altri pregiudizi. Così, se ci troviamo di fronte a un gran numero di allievi e gli insegnanti di professione scarseggiano, non possiamo che dire: grazie, è una condizione favorevole. Le nuove maestre debbano tuttavia comprendere talune cose fondamentali che non presentano particolari difficoltà. Per esempio, all'epoca del mio primo esperimento, io insegnai alla mia aiutante, che era la figlia del portiere del casamento, a presentare certi oggetti al bambino o alla bambina in un modo particolare e in un determinato ordine, e poi a lasciarli soli. La ragazza, che era una creatura semplice, senza cultura, fece esattamente quello che era stato detto e con sua grande sorpresa i bambini cominciarono a lavorare con questi oggetti, con risultati veramente straordinari. La giovane pensò addirittura che fosse opera di angeli o di spiriti e corse da me, mezzo spaventata, a riferirmi: Signora, ieri alle 2 questo bambino ha cominciato a scrivere. Sembrava una cosa soprannaturale che il piccino scrivesse delle frasi ben tornite quando non aveva mai scritto nulla in vita sua e non sapeva ancora leggere. L'esperienza ha insegnato che il maestro deve ritirarsi sempre più nell'ombra, limitandosi a preparare il terreno perché i bambini lavorino da sé. La nostra opera consiste nell'indicare al maestro quando il suo intervento può essere inutile e addirittura nocivo. E possiamo chiamarla il metodo del non intervento. Il maestro deve misurare tutto ciò che occorre, come un servitore che prepara con cura una bevanda per il padrone e poi la lascia sul tavolino accanto a lui, perché la beva quando ne ha voglia. I maestri devono imparare a essere umili, a non imporsi ai bambini loro affidati, seguendone però sempre vigili i progressi e preparando tutto ciò che possa occorrere per continuare la loro attività. I genitori che collaborano più cordialmente con i nostri metodi educativi sono quelli delle classi inferiori. Quando il bambino o la bambina scrivono la loro prima parola e il padre e la madre non sanno scrivere, la loro adorante ammirazione davanti a questa impresa serve di incoraggiamento e di incitamento, mentre i genitori più ricchi mostrano scarso interesse e probabilmente domandano al bambino se a scuola non gli insegnano anche arte e letteratura, sicché la sua impresa sembra meno importante. Un bambino che vorrebbe spolverare si sente spesso dire che è un lavoro da domestiche e che non lo mandano a scuola per imparare quei lavori servili. O magari una madre, venendo a sapere che il suo bambino impara la matematica a un'età che si aggiudica troppo tenera, ha paura che gli venga un'infiammazione cerebrale e vuole che cessi subito. Così il bambino o la bambina acquistano un complesso di superiorità o inferiorità e ne restano mentalmente danneggiati. E proprio così le condizioni che erano considerate inadatte a un esperimento educativo sono in realtà le migliori. E il successo non si limita ai bambini, ma si ripercuote sui genitori. Nella mia prima casa sperimentale, i bambini che avevano cominciato a fare esercizi di vita pratica dicevano alle madri che non dovevano portare vestiti macchiati e sporchi e non dovevano versare acqua sul pavimento. E ben presto le madri cominciavano ad avere più cura dei loro abiti e dell'ordine. I genitori sentivano il bisogno di imparare a leggere e a scrivere, dato che lo avevano imparato anche i loro bambini e attraverso i piccoli allievi. Tutto l'ambiente cominciava a trasformarsi e sembrava che avessimo in mano una bacchetta magica.